Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuti ad una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è Il Pianeta del Tesoro, film del 2002 considerato 43esimo classico Disney. Il film è liberamente tratto dal romanzo L'Isola del Tesoro di Stevenson, ma è riportato in un'ambientazione fantascientifica e steampunk. Il protagonista è Jim, un ragazzino scapestrato che un giorno si imbatte nella navicella di un alieno ferito. Jim lo soccorre e l'alieno gli rivela che in realtà lui aveva trovato la mappa per il mitico pianeta del tesoro del capitano Flint e che nel tentativo era stato ferito da dei cyborg pirata che si volevano impossessare della mappa. Jim, insieme all'astrofisico Dr. Doppler, decidono di assoldare una navicella e una ciurma per andare a fare una spedizione alla ricerca di questo fantomatico pianeta. Assolderanno una ciurma composta da cyborg pirati che subito si rivelano dei delinquenti perché infatti vogliono ammutinare la nave. Ma nel frattempo uno di loro, Silver, fa molta amicizia con Jim e si affeziona a lui. E anche se inizialmente Silver sarà convinto di far fuori il ragazzo, quando alla fine, dopo varie peripezie, tutti i protagonisti riescono ad arrivare al pianeta del tesoro, Jim viene salvato da Silver stesso che rinuncia al bottino per aiutarlo e per salvargli la vita. Il finale quindi vede Silver che deve scappare perché è appunto un pirata e Jim che matura da un ragazzino scapestrato finalmente a un ragazzo maturo. Il film a livello di realizzazione fu molto dispendioso, dato che le animazioni nello spazio richiesero anche l'uso dell'ausilio digitale, e di conseguenza gli incassi non riuscirono a coprire del tutto le spese del film, rivelandosi quindi un flop al botteghino. Però in realtà il film è stato molto rivalutato, ha avuto anche una nomination all'Oscar, e anche se il sequel in realtà non è stato realizzato proprio per questo flop al botteghino, è uno dei film più apprezzati da parte del pubblico e considerato uno dei film più sottovalutati della Disney. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo ad una prossima puntata di Curiosità Animate.